3. L'odio suo apparato. Uso improprio per impadronirsi del potere. La sezione precedente discuteva il rischio che individui e piccole organizzazioni cooptino un piccolo sottoinsieme del paese di geni in un data center per causare distruzione su larga scala. Ma dovremmo anche preoccuparci, probabilmente molto di più, dell'uso improprio dell'IA allo scopo di esercitare o impadronirsi del potere, probabilmente da di parte attori più grandi e consolidati. In Macchine di amorevole grazia, ho discusso la possibilità che i governi autoritari possano usare un'IA potente per sorvegliare o reprimere i loro cittadini in modi che sarebbero estremamente difficili da riformare o rovesciare. Le autocrazie attuali sono limitate nella loro capacità repressiva dalla necessità di avere umani che eseguano i loro ordini, e gli umani hanno spesso limiti su quanto siano disposti a essere disumani. Ma le autocrazie abilitate dall'IA non avrebbero tali limiti. Ancora peggio, i paesi potrebbero anche usare il loro vantaggio nell'IA per ottenere potere su altri paesi. Se il paese di geni nel suo insieme fosse semplicemente posseduto e controllato dall'apparato militare di un singolo paese, e altri paesi non avessero capacità equivalenti, è difficile vedere come potrebbero difendersi. Sarebbero superati in astuzia in ogni occasione, simile a una guerra tra umani e topi. Mettere insieme queste due preoccupazioni porta alla possibilità allarmante di una dittatura totalitaria globale. Ovviamente, dovrebbe essere una delle nostre massime priorità prevenire questo esito. Ci sono molti modi in cui l'IA potrebbe consentire, radicare o espandere l'autocrazia, ma ne elencherò alcuni di cui sono più preoccupato. Si noti che alcune di queste applicazioni hanno usi difensivi legittimi, e non le sto necessariamente contestando in termini assoluti. Sono comunque preoccupato che strutturalmente tendano a favorire le autocrazie, armi completamente autonome. Uno sciame di milioni o miliardi di droni armati completamente automatizzati, controllati localmente da un'IA potente e coordinati strategicamente in tutto il mondo da un'IA ancora più potente, potrebbe essere un esercito imbattibile, capace sia di sconfiggere qualsiasi forza militare al mondo che di sopprimere il dissenso all'interno di un paese seguendo ogni cittadino. Gli sviluppi nella guerra Russia-Ucraina dovrebbero metterci in guardia sul fatto che la guerra con i droni è già tra noi. La ricerca e sviluppo da di parte un'IA potente potrebbe rendere i droni di un paese di gran lunga superiori a quelli di altri, accelerarne la produzione, renderli più resistenti agli attacchi elettronici, migliorarne la manovrabilità e così via. Naturalmente, queste armi hanno anche usi legittimi nella difesa della democrazia. Sono state fondamentali per difendere l'Ucraina e sarebbero probabilmente fondamentali per difendere Taiwan. Ma sono un'arma pericolosa da maneggiare. Dovremmo preoccuparcene nelle mani delle autocrazie. Ma anche preoccuparci che, essendo così potenti, con così poca responsabilità, ci sia un rischio notevolmente aumentato che i governi democratici le rivolgano contro il proprio popolo per impadronirsi del potere. Sorveglianza IA. Un'IA sufficientemente potente potrebbe probabilmente essere usata per compromettere qualsiasi sistema informatico al mondo, e potrebbe anche usare l'accesso ottenuto in questo modo per leggere e dare un senso a tutte le comunicazioni elettroniche mondiali. Potrebbe essere spaventosamente plausibile generare semplicemente un elenco completo di chiunque sia in disaccordo con il governo su qualsiasi numero di questioni, anche se tale disaccordo non è esplicito in nulla che dicono o fanno. Un'IA potente che esamina miliardi di conversazioni di milioni di persone potrebbe valutare il sentimento pubblico, individuare sacche di slealtà informazione e reprimerle prima che crescano. Questo potrebbe portare all'imposizione di un vero e proprio panopticon su una scala che non vediamo oggi, nemmeno con il PCC. Propaganda IA. I fenomeni odierni di psicosi da IA e fidanzate IA suggeriscono che anche all'attuale livello di intelligenza, i modelli di IA possono avere una potente influenza psicologica sulle persone. Versioni molto più potenti di questi modelli, che fossero molto più integrate e consapevoli della vita quotidiana delle persone e potessero modellarle e influenzarle per mesi o anni, sarebbero probabilmente in grado di fare il lavaggio del cervello a molte persone in qualsiasi ideologia o atteggiamento desiderato, e potrebbero essere impiegate da un leader senza scrupoli per garantire lealtà e sopprimere il dissenso, anche di fronte a un livello di repressione che la maggior di parte L. Popola Zioni Refutereb. Oggi le persone si preoccupano molto, ad esempio, del potenziale influsso di TikTok come propaganda del PCC rivolta ai bambini. Mi preoccupo anche di quello. Ma un agente IA personalizzato che ti conosce nel corso degli anni e usa la sua conoscenza di te per plasmare tutte le tue opinioni sarebbe drammaticamente più potente di questo. Processo decisionale strategico. Un paese di geni in un data center potrebbe essere usato per consigliare un paese, un gruppo o un individuo sulla strategia geopolitica, quello che potremmo chiamare un Bismarck virtuale. Potrebbe ottimizzare le tre strategie sopra per impadronirsi del potere. Più probabilmente svilupparne molte altre a cui non ho pensato. Diplomazia, strategia militare, ricerca e sviluppo, strategia economica e molte altre aree vedranno probabilmente un aumento sostanziale dell'efficacia grazie all'IA potente. Molte di queste abilità sarebbero legittimamente utili per le democrazie. Vogliamo che le democrazie abbiano accesso alle migliori strategie per difendersi dalle autocrazie. Ma il potenziale di uso improprio nelle mani di chiunque rimane comunque. Dopo aver descritto cosa mi preoccupa, passiamo a chi. Sono preoccupato per le entità che hanno il maggiore accesso all'IA, che partono dalla posizione di maggior potere politico o che hanno una storia di repressione. In ordine di gravità, sono preoccupato per il PCC. La Cina è seconda solo agli Stati Uniti nelle capacità di IA ed è il paese con la maggiore probabilità di superare gli Stati Uniti in tali capacità. Il loro governo è attualmente autocratico e gestisce uno stato di sorveglianza high-tech. Ha già dispiegato la sorveglianza basata sull'IA e si ritiene che impieghi propaganda algoritmica tramite TikTok. Hanno di gran lunga il percorso più chiaro verso l'incubo totalitario abilitato dall'IA che ho delineato sopra. Potrebbe persino essere l'esito predefinito all'interno della Cina, così come all'interno di altri stati autocratici, a cui il PCC esporta la tecnologia di sorveglianza. Ho scritto spesso sulla minaccia che il PCC prenda il comando nell'IA e sull'imperativo esistenziale per impedire loro di farlo. Ecco perché. Per essere chiari, non sto prendendo di mira la Cina per animosità verso di loro in particolare. Sono semplicemente il paese che più combina abilità nell'IA, governo autocratico e stato di sorveglianza high-tech. Semmai, sono gli stessi cinesi che hanno maggiori probabilità di soffrire della repressione abilitata dall'IA del PCC e non hanno voce nelle azioni del loro governo. Ammiro e rispetto molto il popolo cinese e sostengo i molti coraggiosi dissidenti all'interno della Cina e la loro lotta per la libertà. Democrazie competitive nell'IA. Come ho scritto sopra, le democrazie hanno un legittimo interesse in alcuni strumenti geopolitici e militari potenziati dall'IA, perché i governi democratici offrono la migliore possibilità di contrastare l'uso di questi strumenti da di parte delle autocrazie. In generale, sono favorevole a dotare le democrazie degli strumenti necessari per sconfiggere le autocrazie nell'era dell'IA. Semplicemente non penso ci sia altro modo. Ma non possiamo ignorare il potenziale di abuso di queste tecnologie da di parte gli stessi governi democratici. Le democrazie hanno normalmente salvaguardie che impediscono al loro apparato militare e di intelligence di essere rivolto verso l'interno contro la propria popolazione. Ma poiché gli strumenti IA richiedono così poche persone per funzionare, c'è il potenziale che eludano queste salvaguardie e le norme che le supportano. Vale anche la pena notare che alcune di queste salvaguardie si stanno già gradualmente erodendo in alcune democrazie. Quindi, dovremmo armare le democrazie con l'IA, ma dovremmo farlo con attenzione e entro limiti. Sono il sistema immunitario di cui abbiamo bisogno per combattere le autocrazie, ma come il sistema immunitario, c'è qualche rischio che si rivolti contro di noi e diventi esso stesso una minaccia. Paesi non democratici con grandi data center. Oltre alla Cina, la maggior di parte dei paesi con governance meno democratica non sono attori principali nell'IA nel senso che non hanno aziende che producono modelli di IA di frontiera. Quindi rappresentano un rischio fondamentalmente diverso e minore rispetto al PCC, che rimane la preoccupazione principale. Ma alcuni di questi paesi hanno grandi data center, che possono essere utilizzati per eseguire IA di frontiera su larga scala. C'è una certa quantità di pericolo associato a questo. Questi governi potrebbero in linea di principio espropriare i data center e usare il paese di IA al suo interno per i propri fini. Sono meno preoccupato di questo rispetto a paesi come la Cina che sviluppano direttamente l'IA, ma è un rischio da tenere a mente. Aziende di IA. È un po' imbarazzante dirlo come CEO di un'azienda di IA, ma penso che il livello successivo di rischio siano effettivamente le stesse aziende di IA. Le aziende di IA controllano grandi data center, addestrano modelli di frontiera, hanno la maggiore esperienza su come usare quei modelli, in alcuni casi hanno contatti quotidiani e la possibilità di influenza su decine o centinaia di milioni di utenti. La cosa principale che manca loro è la legittimità e l'infrastruttura di uno Stato. Quindi grandi parte ciò che sarebbe necessario per costruire gli strumenti di un'autocrazia IA sarebbe illegale per un'azienda di IA farlo, o quantomeno estremamente sospetto. Ma una parte non è impossibile. Potrebbero, ad esempio, usare i loro prodotti IA per fare il lavaggio del cervello alla loro enorme base di utenti consumatori, e il pubblico dovrebbe essere vigile sul rischio che questo rappresenta. Penso che la governance delle aziende di IA meriti molta attenzione. Ci sono una serie di possibili argomentazioni contro la gravità di queste minacce, e vorrei crederci, perché l'autoritarismo abilitato dall'IA mi terrorizza. Vale la pena esaminare alcune di queste argomentazioni e rispondere. In primo luogo, alcune persone potrebbero riporre la loro fiducia nel deterrente nucleare, in particolare per contrastare l'uso di armi autonome IA per la conquista militare. Se qualcuno minaccia di usare queste armi contro di te, puoi sempre minacciare una risposta nucleare. La mia preoccupazione è che non sono del tutto sicuro che possiamo essere fiduciosi nel deterrente nucleare contro un paese di geni in un data center. È possibile che un'IA potente possa escogitare modi per rilevare e colpire i sottomarini nucleari, condurre operazioni di influenza contro gli operatori delle infrastrutture delle armi nucleari, o usare le capacità informatiche dell'IA per lanciare un ciberattacco contro i satelliti usati per rilevare i lanci nucleari. In alternativa, è possibile che la conquista di paesi sia fattibile con la sola sorveglianza IA e la propaganda IA, e non presenti mai un momento chiaro in cui sia ovvio cosa stia succedendo e in cui una risposta nucleare sarebbe appropriata. Forse queste cose non sono fattibili e il deterrente nucleare sarà ancora efficace, ma sembra un rischio troppo alto da correre. Una seconda possibile obiezione è che potremmo adottare contromisure contro questi strumenti di autocrazia. Possiamo contrastare i droni con i nostri droni. La difesa informatica migliorerà insieme all'attacco informatico. Potrebbero esserci modi per immunizzare le persone dalla propaganda, eccetera. La mia risposta è che queste difese saranno possibili solo con un'IA altrettanto potente. Se non c'è una controforza con un paese di geni in un data center altrettanto intelligente e numeroso, non sarà possibile eguagliare la qualità o la quantità dei droni, per la difesa informatica superare in astuzia l'offesa informatica, eccetera. Quindi la questione delle contromisure si riduce alla questione di un equilibrio di potere nell'IA potente. Qui, sono preoccupato per la proprietà ricorsiva o autorinforzante dell'IA potente, che ogni generazione di IA può essere usata per progettare e addestrare la prossima generazione di IA. Questo porta a un rischio di un vantaggio inarrestabile, in cui l'attuale leader nell'IA potente potrebbe essere in grado di aumentare il proprio vantaggio e potrebbe essere difficile da raggiungere. Dobbiamo assicurarci che non sia un paese autoritario ad arrivare per primo a questo ciclo. Inoltre, anche se si potesse raggiungere un equilibrio di potere, c'è ancora il rischio che il mondo possa essere diviso in sfere autocratiche, come in 1984. Anche se diverse potenze in competizione avessero ciascuna i propri potenti modelli di IA, e nessuna potesse sopraffare le altre, ciascuna potrebbe comunque reprimere internamente la propria popolazione e sarebbe molto difficile da rovesciare. È quindi importante prevenire l'autocrazia abilitata dall'IA, anche se non porta a un singolo paese che conquista il mondo. Difese: come ci difendiamo da questa vasta gamma di strumenti autocratici e potenziali attori minacciosi? Come nelle sezioni precedenti, ci sono diverse cose che penso possiamo fare. Primo, non dovremmo assolutamente vendere chip, strumenti per la produzione di chip o data center al PCC. I chip e gli strumenti per la produzione di chip sono il più grande collo di bottiglia per un'IA potente, e bloccarli è una misura semplice ma estremamente efficace, forse la singola azione più importante che possiamo intraprendere. Non ha senso vendere al PCC gli strumenti con cui costruire uno stato totalitario IA e possibilmente conquistarci militarmente. Vengono fatte una serie di argomentazioni complicate per giustificare tali vendite, come l'idea che diffondere il nostro stack tecnologico in tutto il mondo consenta all'America di vincere in qualche battaglia economica generale e non specificata. A mio avviso, questo è come vendere armi nucleari alla Corea del Nord e poi vantarsi che gli involucri dei missili sono prodotti da Boeing e quindi gli Stati Uniti stanno vincendo. La Cina è indietro di diversi anni rispetto agli Stati Uniti nella capacità di produrre chip di frontiera in quantità. Ed è molto probabile che il periodo critico per la costruzione del paese di geni in un data center sia entro questi prossimi anni. Non c'è motivo di dare una spinta gigantesca alla loro industria IA durante questo periodo critico. In secondo luogo, ha senso usare l'IA per potenziare le democrazie a resistere alle autocrazie. Questa è la ragione per cui Anthropic ritiene importante fornire IA alle comunità dell'intelligence e della difesa negli Stati Uniti e nei loro alleati democratici. Difendere le democrazie sotto attacco, come l'Ucraina e Taiwan, sembra una priorità particolarmente alta, così come potenziare le democrazie a usare i loro servizi di intelligence per sconvolgere e degradare le autocrazie dall'interno. A un certo livello, l'unico modo per rispondere alle minacce autocratiche è eguagliarle e superarle militarmente. Una coalizione degli Stati Uniti e dei loro alleati democratici, se raggiungesse la predominanza nell'IA potente, sarebbe in grado non solo di difendersi dalle autocrazie, ma di contenerle e limitare i loro abusi totalitari IA. In terzo luogo, dobbiamo tracciare una linea dura contro gli abusi dell'IA all'interno delle democrazie. Devono esserci limiti a ciò che permettiamo ai nostri governi di fare con l'IA, in modo che non si impadroniscano del potere o reprimano il loro stesso popolo. La formulazione a cui sono arrivato è che dovremmo usare l'IA per la difesa nazionale in tutti i modi, eccetto quelli che ci renderebbero più simili ai nostri avversari autocratici. Dove dovrebbe essere tracciata la linea? Nell'elenco all'inizio di questa sezione, due voci, usare l'IA per la sorveglianza di massa domestica e la propaganda di massa, mi sembrano linee rosse evidenti e del tutto illegittime. Alcuni potrebbero sostenere che non c'è bisogno di fare nulla, poiché la sorveglianza di massa domestica è già illegale ai sensi del quarto emendamento. Ma il rapido progresso dell'IA potrebbe creare situazioni che i nostri quadri giuridici esistenti non sono ben progettati per affrontare. Ad esempio, probabilmente non sarebbe incostituzionale per il governo degli Stati Uniti condurre registrazioni su scala massiccia di tutte le conversazioni pubbliche, e in precedenza sarebbe stato difficile vagliare questo volume di informazioni, ma con l'IA potrebbe essere tutto trascritto, interpretato e triangolato per creare un quadro dell'atteggiamento e della lealtà di molti o della maggior di parte ai cittadini. Sosterrei una legislazione incentrata sulle libertà civili che imponga protezioni più forti contro gli abusi potenziati dall'IA. Le altre due voci, armi completamente autonome e IA per il processo decisionale strategico, sono linee più difficili da tracciare poiché hanno usi legittimi nella difesa della democrazia, pur essendo anche soggette ad abusi. Qui penso che ciò che è giustificato sia una cura e un esame estremi combinati con protezioni per prevenire abusi. La mia paura principale è avere un numero troppo esiguo di dita sul pulsante, tale che una o una manciata di persone potrebbero essenzialmente operare un esercito di droni senza bisogno che altri umani cooperino per eseguire i loro ordini. Man mano che i sistemi di IA diventano più potenti, potremmo aver bisogno di meccanismi di supervisione più diretti e immediati per assicurarci che non vengano usati impropriamente, forse coinvolgendo rami del governo diversi dall'esecutivo. Penso che dovremmo affrontare le armi completamente autonome con grande cautela e non affrettarci nel loro uso senza adeguate salvaguardie. In quarto luogo, dopo aver tracciato una linea dura contro gli abusi dell'IA nelle democrazie, dovremmo usare quel precedente per creare un tabù internazionale contro i peggiori abusi dell'IA potente. Riconosco che gli attuali 20 politici hanno voltato le spalle alla cooperazione internazionale e alle norme internazionali, ma questo è un caso in cui abbiamo un disperato bisogno di esse. Il mondo deve capire il potenziale oscuro dell'IA potente nelle mani degli autocrati e riconoscere che certi usi dell'IA equivalgono a un tentativo di rubare permanentemente la loro libertà e imporre uno stato totalitario da cui non possono fuggire. Sostengo addirittura che in alcuni casi, la sorveglianza su larga scala con IA potente, la propaganda di massa con IA potente e certi tipi di usi offensivi di armi completamente autonome dovrebbero essere considerati crimini contro l'umanità. Più in generale, è fortemente necessaria una norma robusta contro il totalitarismo abilitato dall'IA e tutti i suoi strumenti e apparati. È possibile avere una versione ancora più forte di questa posizione, ovvero che, poiché le possibilità del totalitarismo abilitato dall'IA sono così oscure, l'autocrazia è semplicemente una forma di governo che le persone non possono accettare nell'era post-IA potente. Proprio come il feudalesimo divenne impraticabile con la rivoluzione industriale, l'era dell'IA potrebbe portare inevitabilmente e logicamente alla conclusione che la democrazia sia l'unica forma di governo praticabile se l'umanità vuole avere un futuro buono. Quinto e ultimo, le aziende di IA dovrebbero essere osservate attentamente, così come la loro connessione con il governo, che è necessaria, ma deve avere limiti e confini. La mera quantità di capacità incarnata nell'IA potente è tale che la normale governance aziendale, che è progettata per proteggere gli azionisti e prevenire abusi ordinari come le frodi, difficilmente sarà all'altezza del compito di governare le aziende di IA. Potrebbe anche essere prezioso che le aziende si impegnino pubblicamente a non intraprendere certe azioni, come costruire o accumulare privatamente hardware militare, utilizzare grandi quantità di risorse di calcolo da di parte singoli individui in modi non trasparenti, o usare i loro prodotti IA come propaganda per manipolare l'opinione pubblica a loro favore. Il pericolo qui proviene da molte direzioni, e alcune direzioni sono in tensione con altre. L'unica costante è che dobbiamo cercare responsabilità, norme e protezioni per tutti, anche mentre potenziamo gli attori buoni per tenere sotto controllo quelli cattivi.